Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro appuntamento con i settimanali, con le notizie interessanti, le tendenze, i temi che si discutono sulla stampa periodica italiana e non solo. Cosa ci riserva il futuro prossimo? Me lo chiedevo perché diversi magazine, diversi settimanali, non solo di lingua italiana, si stanno un po' esibendo nell'andare a cercare delle novità tecnologiche, delle suggestioni tecnologiche del futuro prossimo venturo, cioè di un futuro abbastanza vicino. Ad esempio, leggendo l'Economist questa settimana, si apprende che non è così lontano il giorno in cui potremo avere le estensioni degli indirizzi internet non più .it, .fr, .uk e così via, ma addirittura .marte, .venere, .sole, insomma, cioè usare, diciamo, lo spazio per mettere dei domini. La questione seriamente allo studio della NASA, riferisce l'Economist, bisogna attuare delle modifiche nelle modalità di comunicazione, nei protocolli di comunicazione planetarie, ma questo avrebbe dei vantaggi perché gestionerebbe un po' il traffico terrestre che adesso pare cominciare a manifestare appunto dei problemi. E allora si sta ragionando di avere un giorno il punto Marte o il punto Venere o chissà il punto qualche pianeta, qualche punto del nostro sistema solare esterno alla Terra. Ma non è l'unica cosa che si trova e che incuriosisce sui settimanali questa settimana in materia di futuro prossimo, perché ad esempio sempre dall'Economist, che ha uno speciale dedicato alle tecnologie, si viene a sapere che esistono già dei progetti per far sì che i telefoni cellulari ci possano avvisare di prendere una certa medicina. In questo caso si tratta di uno studio molto serio, già portato avanti dall'MIT, il famoso Massachusetts Institute of Technology. Questo istituto molto noto sta cercando di utilizzare i cellulari per ricordare ai pazienti di prendere medicine per terapie molto lunghe. Il caso riguarda la cura della tubercolosi, perché cosa succede? Dovendo avere delle assunzioni di medicine che proseguono per molti mesi, accade che dopo un paio di mesi normalmente i pazienti si stufino di prendere la medicina e non conseguono più la terapia prescritta. Allora si è pensato di utilizzare i cellulari mandando dei messaggi, facendo in modo che l'interazione appunto tra il paziente e il suo telefonino cellulare gli ricordi, lo costringa anche con dei messaggi un po' inquietanti, insomma, di prendere questa medicina. Sempre in materia di cellulari, tra l'altro, il magazine del Corriere giovedì ci segnalava che in Corea, e questo non è più futuro prossimo ma è presente perché già succede da loro, se perdete il portafoglio non importa, ma se vi perdete il cellulare è un disastro, perché riferisce nella sua rubrica Elzeviro Marco Pratellesi che appunto esiste un posto nel mondo dove perdere il cellulare è peggio che perdere il portafoglio, la Corea del Sud. E c'è proprio una dichiarazione di una studentessa 21enne di Seoul, dice: se lascio il portafoglio a casa posso anche non accorgermene per tutto il giorno, ma se perdo il cellulare la mia vita comincia a incepparsi fino dalla metropolitana. Perché? Perché con una rete wireless che è tra le più veloci al mondo e con l'alta tecnologia di cui si è dotata la Corea del Sud, questo paese è diventato il luogo migliore per capire cosa diventerà per tutti noi il cellulare nel prossimo futuro. Ci sorprendiamo già oggi per quante cose fa il nostro telefonino, spiega Pratellesi, ma ancora non abbiamo sperimentato il suo utilizzo come sistema di micropagamenti sul bus o in metro. Ci sono effettivamente delle sperimentazioni, ad esempio a Milano per pagare la sosta, per acquistare una bibita o un giornale, per pagare il posteggio, come porta documenti addirittura, per tenerci appunto la carta d'identità, la patente, la tessera sanitaria. Ecco, tutto questo già lo fanno appunto in Corea del Sud, con un chip inserito nel telefonino che fa del telefonino stesso il centro della vita quotidiana. Quindi si può pagare, ma in realtà si può fare molte cose per il tramite tecnologico del telefonino, che probabilmente molto presto diventerà assolutamente insostituibile, così legato a noi, un po' come forse il codice fiscale o appunto la stessa carta d'identità. Non è finita col futuro prossimo, perché sempre sul magazine del Corriere che avete trovato giovedì si parla di un prototipo di auto che si chiama AirPod, un'auto a tre ruote, si guida con un joystick, quindi un'asta tipo quella dei videogiochi, ed è spinta da un propulsore ad aria compressa. L'hanno presentata qualche mese fa, è una produzione, è uno studio francese, l'azienda si chiama MDE, e l'auto ad aria ha già suscitato un grande interesse, sembrava destinata a rimanere un prototipo, ma l'azienda ha comunicato che sta per consegnare i primi esemplari. È al momento il mezzo di trasporto più ecologico che esista. Ha un motore bicilindrico, ha un'autonomia di 200 km, può raggiungere i 70 km orari e per fare 100 km si spendono 50 centesimi. Quindi l'auto del futuro, che potrebbe essere molto meno inquinante, di sicuro. E torniamo sull'Economist per chiudere questa panoramica di futuro prossimo o futuro già presente in qualche caso, sarà fortemente interconnessa, perché in un lungo servizio appunto sull'Economist si parla dell'auto connessa, spiegando come dal navigatore satellitare via via si sta completando, si stanno aumentando le possibilità di interazione tra le automobili tra loro, quindi può essere anche utile per segnalare gli ingorghi, per segnalare il traffico, ma è già un uso corrente quello per motivi di sicurezza, di deterrenza contro i furti dei veicoli di tipo commerciale, e via via insomma si stanno sperimentando sempre nuovi meccanismi di interazione tra l'auto e le sue possibili connessioni. Allora, torniamo un po' indietro in qualche modo, dal futuro veniamo invece al presente. Colpisce sul Nouvel Observateur questa settimana vedere due lunghi servizi dedicati a Stieg Larsson. Io mi scuso se non tutti gli ascoltatori sono appassionati di questo romanziere svedese, che ha scritto tre volumi, come sanno i suoi appassionati, e poi è scomparso molto giovane. I suoi tre volumi però sono un successo in tutto il mondo, soprattutto in Francia, si vede appunto dallo spazio che gli dedica il Nouvel Observateur questa settimana, dove si racconta appunto la prima reazione della editrice francese che nel 2004 ha avuto per la prima volta tra le mani i volumi appunto della trilogia cosiddetta di Stieg Larsson. Il primo è Uomini che odiano le donne, e come sapete in questi giorni sia in Francia ma anche in Italia è in visione nei cinema il film tratto proprio da questo libro molto fortunato. Bene, questa editrice, la signora Eva Jeden, nel 2004 poggiò i tre volumi e disse soltanto: un libro, sono libri che non si riesce a mettere giù, cioè bisogna in qualche modo, una volta che li si è iniziati, finirli, e da lì insomma comincia l'avventura per la parte francese di Stieg Larsson, di questo autore svedese, che ha venduto più di 12 milioni di copie. Però, come riferisce appunto l'inizio di questo lungo articolo, il signor Larsson non ha mai potuto sapere del successo così forte in tutto il mondo, perché appunto doveva poi mancare di lì a poco in modo improvviso. E al fenomeno Larsson in qualche modo le Nouvel Observateur dedica una inchiesta molto lunga, chiedendosi quali sono i motivi del successo dei suoi romanzi. Sono romanzi sicuramente che contengono un po' di trasgressione, anzi un elogio in qualche modo della trasgressione. Una delle protagoniste, diciamo la protagonista femminile, è un personaggio che è un pochino liminale, con comportamenti sicuramente non da prendere ad esempio, è un pirata informatico, tanto per dirne una, quindi non si tratta proprio di eroi a tutto tondo o comunque solamente positivi. Curioso anche che il protagonista appunto Mikael Blomqvist sia un giornalista, con ciò appunto ridando un po' di credibilità alla categoria, che effettivamente non solo in Italia ma in tutto il mondo non gode magari di ottima stampa in questo momento. E poi Nouvel Observateur completa la sua inchiesta con una serie di domande sull'eredità di Larson. Chiaramente la sua scomparsa nel novembre del 2004 ha lasciato questo successo mondiale in qualche modo ai suoi eredi. C'è una battaglia ancora aperta perché che vede contrapposti i genitori del romanziere e la sua compagna, la donna con cui Larson viveva. Trattandosi appunto di cifre molto molto importanti in tutto il mondo, per questi diritti d'autore è comprensibile che si creino delle tensioni. Tutto questo lo riferisce il Nouvel Observateur. Magazine 24. Bentornati, restiamo allora nel tempo presente, in qualche modo all'estero, perché parliamo di Radio Vaticana. Non so quanti di voi avevano visto sui quotidiani questa caduta del tabù della pubblicità Radio Vaticana. In qualche modo nel mondo della radio e della comunicazione in generale una rivoluzione, e infatti così la saluta anche Famiglia Cristiana questa settimana. Dice: cade un piccolo tabù. Radio Vaticana, l'emittente che ha avuto come suo primo collaboratore Guglielmo Marconi e che ha come missione quella di essere uno strumento di evangelizzazione in tutti i continenti, ha deciso a sorpresa, riferisce Famiglia Cristiana, di aprirsi alla pubblicità a pagamento, anche se questo avverrà in modo contenuto, facendo attenzione a non interrompere i programmi per inserire gli spot. Questi ultimi, ha detto il direttore di Radio Vaticana, Padre Lombardi, saranno inseriti invece nei programmi di intrattenimento culturale. Naturalmente non saranno inseriti negli spazi che vengono dedicati da Radio Vaticana alle attività del pontefice. È già stabilito il primo inserzionista istituzionale, sarà l'Enel. La Radio Vaticana, tra l'altro, ci sono anche dei numeri che accompagnano questo resoconto di Famiglia Cristiana. È stata fondata nel 1931, oggi diffonde per 23.482 ore l'anno i suoi programmi, che sono emessi in 40 lingue diverse. Lo staff della radio è fatto da 384 persone che sono di 59 nazionalità. Questo appunto il tabù che cade, una cosa moderna, la pubblicità che fa irruzione a Radio Vaticana e che cambia un po' la prospettiva nel panorama radiofonico mondiale. Sempre di tempi moderni si occupa poi Famiglia Cristiana nel suo primo piano, nell'editoriale, dove segnala appunto quanto la crisi stia mordendo le famiglie e le fasce più deboli. Scrive nel titolo: c'è un'Italia che arranca nell'indifferenza generale, c'è un problema di precariato del lavoro e di allargamento delle fasce deboli. In questa Famiglia Cristiana riprende non solo le parole di Draghi, ma anche quelle appunto del Papa di Benedetto XVI nel discorso tenuto all'Assemblea dei Vescovi. Nonostante le misure intraprese a vari livelli, gli effetti sociali della crisi non mancano di farsi tuttora sentire anche duramente, ha detto Benedetto XVI, in modo particolare sulle fasce più deboli della società e sulle famiglie. E a proposito di crisi, sull'Espresso di questa settimana si riferisce di come appunto l'esito della crisi soprattutto finanziaria, in questo caso stia colpendo Londra. L'articolo mi ha incuriosito anche perché forse alcuni di voi hanno potuto vedere gli articoli con cui sul Sole 24 Ore in questi giorni abbiamo parlato del saggio di Marco Alfieri, che è intitolato La peste di Milano e che appunto si interroga sulle prospettive di sviluppo di quella che è stata definita la capitale morale e direi economica del paese, e che invece sembra mostrare adesso dei segni di stanchezza nella sua corsa. Questo a Milano. E a Londra cosa succede? A Londra ce lo spiega Annalisa Piras sull'Espresso di questa settimana. Cos'è successo innanzitutto? Che con la crisi soprattutto finanziaria dell'autunno scorso ci sono stati molti licenziamenti, molte persone sono uscite soprattutto dalle attività finanziarie, ma ogni crisi, scrive Piras, presenta delle opportunità. Oggi gli affitti a Londra sono meno cari, ci sono ancora i soldi delle buone uscite e c'è chi si reinventa con creatività. In queste creatività sparse con cui le persone che hanno perduto il lavoro hanno cercato di reinventarsi figura anche ad esempio l'aumento di negozi che vendono lingerie e biancheria intima un po' spregiudicata, un po' sexy. Questo è un boom, spiegano da Londra, molto, molto sentito per diciamo tutto questo tipo di intrattenimento un po' particolare. I due aspetti non sarebbero collegati, ma forse sì. Si dice sempre nell'articolo della Piras che le richieste di divorzio sono aumentate in questo stesso periodo del 300%. Forse qui non c'entrano tanto però i negozi di lingerie, ma il fatto è che quando il denaro vola dalla finestra, l'amore esce dalla porta. Il commento di un avvocato divorzista, Sandra Davis, che dice: qui ci sono due aspetti, quelli che cercano di chiudere un rapporto coniugale ormai arrivato agli sgoccioli in un momento favorevole per quanto riguarda l'importo dell'assegno da fissare, e chi invece cerca di ottenere il massimo prima che la situazione precipiti, e quindi di avere un assegno molto ricco da un coniuge che potrebbe perdere il lavoro. Ci sono poi un po' di numeri che spiegano come la crisi si è fatta sentire a Londra. Ci sono stati 28.000 tagli nella finanza nel 2008, 29.000 quelli che si attendono quest'anno, e ci sono, questo è un dato interessante, 30.000 e più persone che hanno firmato un accordo di insolvenza volontaria. Dovete sapere che nei paesi anglosassoni, non solo in Inghilterra ma anche negli Stati Uniti, è possibile che una persona fisica, un individuo, dichiari il fallimento, esattamente come succederebbe per un'azienda. Ecco, ci sono delle persone che si sono così fortemente indebitate e poi si sono hanno dovuto preparare dei piani di rientro, ed è quello che appunto è successo per 30.000 di questi londinesi, di queste persone in Inghilterra. Il debito medio di queste 30.000 persone che hanno firmato dei piani di rientro è intorno alle 50.000 sterline. Sono mal contati, potremmo dire, tra i 55 e i 60.000 euro. Cambiamo completamente argomento, torniamo in Italia con una segnalazione che ci viene dal mondo di questa settimana. Un effetto diciamo legato in qualche modo alla crisi, ma in realtà poi anche ai tempi sempre più complessi che viviamo non solo nell'economia ma insomma anche nella vita di tutti i giorni, è la crescita degli investigatori privati. Tempi duri serve una spia, così intitola Gaia Fiertler il suo articolo sul Mondo di questa settimana. La crisi dà lavoro agli spioni, banche e finanziari, leggiamo dal Mondo, per esempio, soldano detective per raccogliere più informazioni possibili sul patrimonio di un debitore o valutare la concessione di un nuovo credito. Le indagini servono anche alle multinazionali che con la recessione rinegoziano i contratti con i partner commerciali e i fornitori, mentre le compagnie di assicurazione fanno ricostruire gli incidenti con maggiore pignoleria. Anche se nei grandi numeri soffrono come tutti, ci sono quindi comparti dove il business per gli investigatori privati sta crescendo. Questa crescita viene poi testimoniata da una serie di operatori del settore, lo vedete, lo trovate sul Mondo di questa settimana, e che ci informa anche che alla fine di maggio al Ministero dell'Interno è stata insediata una commissione per l'investigazione privata, si dovrebbe riunire di nuovo a metà di questo mese, si sta discutendo del futuro della professione. Qual è il punto più caldo, scrive il Mondo, se fare della laurea la soglia minima di accesso. Così vorrebbe la principale associazione di categoria, che è la Federpol. L'accesso finora è invece regolato con una certa discrezionalità dalle singole prefetture in base a un decreto che risale al 1940. Ora c'è una legge nuova, ci sono dei requisiti minimi formativi e professionali che sono necessari per il rilascio della licenza, ma questa legge va riempita appunto dai decreti attuativi che dovranno essere completati entro l'anno, e appunto a questi decreti sta lavorando il Ministero. Potrebbe esserci presto l'obbligo di laurea, quindi anche per fare l'investigatore privato. Alcune vicende interessanti vengono riferite dal settimanale Vita di questa settimana. Vita ha una sezione dedicata alla integrazione o alla presenza di stranieri in Italia, persone che appunto raccontano la loro esperienza. Ci sono su questo numero delle indicazioni molto curiose che vengono da giovani stranieri che però hanno vissuto e studiato soprattutto in Italia, Italia e si sono innamorati di due volumi italiani, di due classici che gli studenti italiani abitualmente non amano molto, quindi la questione diventa più interessante ancora. Ad esempio Rasmea Salah, che è una egiziana ma ha studiato in Italia, è una fan dei Promessi Sposi, addirittura li conosceva così bene al liceo che le compagne italiane copiavano i suoi compiti sui Promessi Sposi perché le riconoscevano una superiorità appunto di preparazione. Spiega la stessa Rasmea su Vita di questa settimana: copiare in letteratura italiana da una che come me aveva quel nome strano e impronunciabile è stato per le mie amiche un divertente paradosso. Per me è stata una riuscita integrazione scolastica, un riscatto personale e un cambio di immagine. C'è un'altra vicenda raccontata da una tunisina che si chiama Meriem Fatem Douib, che è invece una appassionata della Divina Commedia. La legge, soprattutto, si sforza anche di comprenderla, come sapete Dante non è così immediatamente accessibile anche conoscendo bene l'italiano contemporaneo, e quindi lei è seriamente appassionata di Dante e si sforza anche di comprenderne tutti i significati. Trova che, così scrive appunto, per capire l'Italia, per capire la cultura italiana e quella cattolica in generale, lei è musulmana, sia necessario, assolutamente necessario, leggere Dante Alighieri. Due testimonianze per due classici che forse noi studenti italiani non abbiamo amato più così tanto. Bene, il tempo a nostra disposizione si è così concluso. Io ringrazio Valeria Bernardi, che era in regia, Vittorio Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma. Vi do appuntamento a sabato prossimo.